Eccoci qua, la pausa natalizia non ha allentato la pressione sul debito italiano. Il differenziale tra i nostri titoli decennali e i Bund tedeschi si è allargato ieri fino a 520 punti base, per poi ripiegare fino a quota 506, in linea con la situazione di venerdì scorso. Ad alimentare la tensione è stata l'attesa per le aste di questa settimana per complessivi 20 miliardi di euro. Oggi vanno in asta 11,5 miliardi di titoli tra BOT e CTZ, domani è previsto invece il test chiave su BTP e CCT. Tutto questo, spread e tassi al test dell'asta BOT. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore questa mattina. In edicola, i mercati nervosi in vista della maxi vendita di debito italiano, appunto, che vi ho letto dalle prime righe dell'apertura di oggi in edicola. Il tema, appunto, l'attenzione, il controllo sui mercati. Ieri questa nuova crescita dello spread, che in qualche modo conclude, anche si annuncia di concludere anche questa settimana, diciamo il controllo sull'anno, su questa, almeno sulla seconda parte di quest'anno. Ci siamo abituati a citarlo, appunto, come fosse la misura della febbre di questa crisi. E il Messaggero, catasto, ecco la riforma, un altro grande tema. Il valore di mercato sarà calcolato in base ai metri quadrati. Intanto autostrade aumentano i pedaggi e così la via alla fase 2 del governo. PDL contro i ministri tecnici, questa è l'apertura scelta, come vi ho detto, dal Messaggero, che a centropagina anticipa il tema di cui parleremo questa mattina, che è quello dei saldi, anticipi e polemiche. Infatti, se le spese prenatalizie sono state, appunto, in forte ribasso, ovviamente c'è una fortissima aspettativa per un passaggio chiave dell'anno economico per i commercianti, che è quello che riguarda, appunto, i saldi. Approfondiremo, ma anche il calcio, le gare sospette, spunta la Lazio, tre azzurri nelle intercettazioni. Taglio basso, elicottero in spiaggia, lui al ristorante. La storia l'avete sentita anche in GR24. Sul Messaggero si racconta nei dettagli di questo atterraggio accanto al ristorante, da cui dall'elicottero scende un'anziana signora infreddolita, aiutata dal figlio premuroso che l'accompagna al ristorante. Lo spericolato ma affettuoso pilota è Francesco Maria De Vito Piscicelli, 55 anni, il costruttore romano che, secondo i verbali dell'inchiesta, rideva alla notizia del terremoto dell'Aquila. Quello che viene descritto, appunto, come una versione decisamente lusso, oltre che irregolare, di pranzo fuori porta nel giorno di Santo Stefano. Tutto viene raccontato, accade intorno alle 12.30 di lunedì, giorno di Santo Stefano, sul versante mare della Feniglia, una delle due lingue di terra che uniscono l'Argentario e la terraferma. Il tratto di spiaggia su cui si è abbassato l'elicottero appartiene allo stabilimento ristorante, un noto stabilimento ristorante quotato specialista in frutti di mare crudi. L'allarme dei non molti spettatori è stato accolto dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri, che hanno passato l'incombenza ai vigili urbani. Ecco, qui però c'è uno degli aspetti anche un po' surreali di questo aspetto. I vigili urbani arrivano, il pilota mostra i documenti di registrazione, il suo brevetto, eccetera. Poi, mentre le guardie municipali si domandano che cosa devono contestargli esattamente, ha preso il braccio della mamma e si è diretto verso il ristorante. Ecco che un'ora più tardi circa, dopo la mazza caffè, è tornato a decollare in direzione dell'Argentario, mentre i vigili ancora si interrogavano sul da farsi. Quindi questa storia che ritrovate oggi di fatto sulla maggior parte dei quotidiani, che, appunto, si è verificata nel giorno di Santo Stefano. Ma proseguiamo ancora dalle aperture. La Stampa di Torino sceglie il tema della casa, dunque casa arriva la riforma, immobili rivalutati al catasto conteranno i metri quadrati e non i vani. Questa il cambiamento, la trasformazione. Vi anticipo oggi che questo tema sarà al centro dell'ora di Oscar Giannino, quindi avrete modo non solo di conoscerne meglio i dettagli, ma anche di porre le vostre domande. Nel taglio basso invece La Stampa ci racconta dell'isola che ha cancellato venerdì 30 dicembre. Samoa toglie il giorno dal calendario per varcare la linea del cambio della data. Erano anni che ci pensavano i samoani di spostarsi da un lato all'altro della linea di cambio di data. Bene, giovedì a mezzanotte le isole Samoa salteranno a ovest della linea del cambiamento di data. Questo almeno è l'intenzione del governo dell'arcipelago. Per gli abitanti di Samoa, dunque, non esisterà la giornata di venerdì e Capodanno arriverà in anticipo, facendo di quegli isolotti il primo posto al mondo ad entrare nel 2012. Insomma, scrive Piero Bianucci sulla prima della Stampa, chi ha fretta di correre verso il compimento dell'infausta profezia Maya può fare il brindisi laggiù. Evasione, 11 miliardi in fuga, caccia al tesoro illegale all'estero. Questa è l'apertura oggi Repubblica. Almeno 11 miliardi di euro sono stati sottratti negli ultimi mesi al fisco, portati illegalmente all'estero. La fuga maggiore ci sarebbe stata tra ottobre e novembre. La Guardia di Finanza è a caccia di questi evasori, mentre il governo Monti prepara la fase 2, quella del rilancio e della crescita. Per finanziare i progetti in cantiere sono allo studio un rincaro delle autostrade e un prestito forzoso. Malumori nel PDL contro l'esecutivo, questa la sintesi appunto che accompagna il titolo d'apertura, mentre nel taglio basso, nel taglio centrale, un volto noto del calcio italiano è Cristiano Doni, l'ex giocatore dell'Atalanta. Il titolo è appunto Scandalo scommesse, truccate altre 10 partite. Ovviamente il tema su cui occhielli, diciamo, non ancora i titoli, ma insomma gli occhielli insistono, i nomi fatti di tre giocatori della nazionale. Nell'intercettazione vengono fatti i nomi di Buffon, Cannavaro e Gattuso, tre giocatori campioni del mondo, tre tra i giocatori più rappresentativi del calcio italiano, ma ricordiamo sono nomi, sono parole scambiate appunto tra giocatori, insomma si dovrà vedere. Questo tema è anche oggi invece in alto sul Corriere della Sera, appunto le partite vendute, c'è anche la Serie A, questo il titolo. La riforma del catasto nel taglio centrale, quindi si scambiano di posti ma i temi non cambiano. Invece a centro pagina c'è un approfondimento, un richiamo sulla Siria: la mia gente di Siria resisterà al martirio. Infatti la rivolta che entra nel suo decimo mese e che ha già provocato migliaia di vittime, raccontata da Khaled Khalifa, che è uno scrittore siriano, che racconta perché secondo lui appunto la vittoria è inevitabile. Una delle ragioni che leggiamo poi nelle pagine interne della sua lunga intervista è che la gente ormai sa che la vendetta del potere sarebbe così, diciamo, violenta e spietata da non consentire passi indietro, e quindi la rivolta deve andare avanti. Il catasto cambia pelle, arrivano i metri quadrati anche per il secolo XIX. Il Fatto Quotidiano invece, altro tema, regalano 1 miliardo ai RAS delle slot machine. Dopo le frequenze TV, anche le licenze dei giochi d'azzardo vengono cedute gratis dallo Stato alle grandi concessionarie. Il governo può ancora indire un'asta e ricavare i soldi, ma lo farà? Per la Padania invece è fase 1, fase 2 sempre flop, ma naturalmente il riferimento è alla fase 1, fase 2 del governo Monti. La manovra ha fatto schizzare lo spread oltre quota 500, crollare i consumi, arretrare la produzione, ma intanto, e tutta la prima pagina di fatto è occupata dalla grande fotografia di un gruppo di passeggeri in aeroporto. Il titolo è Il turismo si ferma. Tutti a casa o quasi, non bastava la recessione registrata negli acquisti natalizi, che sotto questo profilo ha fatto definire al Codacons quello appena trascorso il Natale peggiore degli ultimi 10 anni, non bastava neppure il crollo degli incassi per il cinema. No, dice la Padania, a subire gli effetti della manovra del governo c'è anche il turismo delle vacanze natalizie, che mostra forti segnali di calo. Ci torneremo tra qualche minuto. Ancora il manifesto, le Monti Truppen, una vignetta di Vauro da Bonvia. Cosa serve la fase 2? E c'è un Monti in versione prussiana, in questo caso, a sterminare i sopravvissuti di fase 1, cretinen, dice questa mattina sulla prima pagina del manifesto. Dopo la stangata, oggi in Consiglio dei Ministri, la fase 2 del governo, l'obiettivo è la crescita. Ancora in pericolo per l'unità il governo al bivio, oggi attese le misure. Il giornale invece parla di altra tassa sulla casa e sottolinea non se ne può più, mentre Vittorio Feltri dedica la sua penna a un lungo approfondimento sul San Raffaele e Don Verzé. Il titolo è Onore a Don Verzé, che ha fatto più miracoli che debiti. Bene, per ora noi ci fermiamo, torniamo insieme tra qualche minuto. 24 mattino. Rieccoci qua insieme, ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, abbiamo visto la maggior parte dei quotidiani della nostra mazzetta questa mattina, ma c'è ancora qualche prima pagina da vedere insieme. Io ripartirei da Avvenire, che mette in prima pagina l'ennesimo, direi, rapimento, sequestro di navi, e in questo caso è di nuovo una nave italiana, proprio a pochi giorni dalla liberazione della petroliera, della Kailin, un'altra nave, in questo caso carica di soda caustica, secondo le indicazioni date dall'armatore, è stata sequestrata dai pirati al largo dell'Oman. Il fenomeno che è esploso letteralmente negli ultimi 6 anni è diventato veramente un elemento di instabilità specifica di uno dei tratti di mare più battuti del pianeta. Non solo non si riduce per il contrasto, ma tende anche a manifestare questa caratteristica per cui le navi vengono catturate sempre più lontane dalle basi dei pirati somali, come nel caso appunto in questione. Di fatto questa nave era appena salpata dai porti omaniti ed è stata catturata, diciamo, ormai i pirati se le vanno a prendere nei loro porti di transito. L'allarme in questo caso è stato dato via radio dal comandante Agostino Musumeci, con lui a bordo 17 uomini, anzi 18 con lui, 5 sono siciliani, 5 ucraini, 7 indiani. E dunque pirati, sequestrata un'altra nave italiana, è il titolo oggi scelto da Avvenire, che tiene sempre in prima pagina i riflettori sui cristiani vittime dell'intolleranza nel mondo. Ieri abbiamo parlato a lungo degli attentati di Natale contro i cristiani della Nigeria, ma Avvenire ci ricorda anche in Orissa, e quindi andiamo nel subcontinente indiano, 50.000 sfollati a 3 anni dal pogrom. Oggi emergono, soltanto oggi, i racconti drammatici dei massacri del 2008, con delle accuse esplicite e circostanziate contro lo Stato indiano, accusato di non avere gestito appunto la sicurezza di piccole comunità comunque minacciate in quel caso dal nazionalismo estremista indù. Quindi sequestri di navi, ma rimarrei, diciamo, in mare per segnalarvi dal Foglio un interessante approfondimento invece, che riguarda le esercitazioni militari. Non siamo più diciamo di fronte ad Aden, ma poco lontano, Hormuz, quindi la grande via del petrolio e la supremazia dell'Iran. Supremazia in questo caso è il nome che le autorità appunto di Teheran hanno dato all'operazione Velayat, dunque supremazia in persiano, quinto giorno di una grande esercitazione navale iraniana nello stretto di Hormuz. I mercati colgono il messaggio di Teheran, il petrolio vola oltre i $108. I mercati dunque colgono il messaggio di Teheran, la marina militare può bloccare il tratto di mare da dove passa circa il 40% di tutto il petrolio trasportato via nave nel mondo e tagliare così i rifornimenti. Questa è appunto la minaccia neanche tanto velata legata a questa operazione che si chiama appunto supremazia. La maggior parte del greggio esportato da Arabia Saudita, da Iran, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq, assieme a tutto il gas naturale del Qatar, passa attraverso un tratto di mare largo meno di 8 km davanti alle coste iraniane. Gli Emirati, per aggirare il rischio di un blocco, hanno appena terminato la costruzione di un oleodotto che può saltare la strettoia di mare e quindi, diciamo, trovare un'altra strada per 1,5 milioni di barili al giorno, la metà della sua produzione. Ma perché l'Iran dovrebbe appunto chiudere questa porta di mare 8 chilometri, davvero nulla, in una chiave di tecnologie militari odierne? Beh, perché l'Iran teme l'arrivo nel 2012 di un nuovo round di sanzioni internazionali. Ne abbiamo parlato a lungo poche settimane fa, soprattutto in seguito all'assalto all'ambasciata britannica da parte degli studenti, tra virgolette, iraniani. Ecco, l'Iran teme l'arrivo nel 2012 di un nuovo round di sanzioni internazionali contro le sue esportazioni per colpa del programma atomico che le Nazioni Unite hanno definito anche militare e che il paese non ha intenzione di fermare, così si legge oggi sul Foglio. Per ora il progressivo accumularsi di misure internazionali ha colpito l'economia iraniana con durezza, ma le risorse naturali, gas e greggio, hanno evitato che fossero crippling, storpianti, come chiede il governo israeliano, e hanno protetto il regime. Il vice ministro per il petrolio di Teheran, Ahmed Kalebani, ha anzi appena annunciato 17 nuovi contratti con partner anche stranieri prima della fine dell'anno. Anno iraniano, quindi marzo 2012, per sfruttare nuovi giacimenti. Se le sanzioni investissero l'esportazione di greggio, la pressione potrebbe essere insostenibile. Insomma, un gioco delle parti, ma anche una trattativa costante e di interessi che, come spesso accade in queste vicende, pongono anche società, interessi privati in linee divergenti rispetto agli stessi governi nazionali. Questo per quanto riguarda appunto una zona di mondo a dir poco caldissima. Il tratto di mare è molto stretto, basta pensare, e così ritorniamo appunto alla nave italiana, la Enrico Jevoli, che quando si parla di appunto dei pirati somali, che in questo caso sono andati, dicevo, letteralmente a prendersi la nave lungo le coste dell'Oman, beh, di fatto siamo arrivati alla curva del Golfo Persico, e da lì lo stretto di Hormuz credo che sia persino a poche ore di navigazione, o sicuramente a non più di 250 chilometri. Ma a proposito di pirati, c'è un interessante approfondimento oggi su Repubblica che racconta nei dettagli, insomma, quello che è diventato un vero e proprio business. Daniele Mastrogiacomo da Londra dice: Londra, Dubai e 238 milioni di dollari. Ecco la macchina da soldi dei bucanieri. Una gigantesca rete di informatori e logisti, ma anche mediatori, investitori capaci di muoversi sulle piazze finanziarie. Insomma, togliamoci dalla mente l'immagine un po' come dire, quasi romantica, anche se violenta, dei pirati diciamo della genia dei Sandokan. Questi sono ben informati, hanno centri di controllo e contatti nelle principali, perché Londra, Londra ovviamente sede dei Lloyds, quindi grande hub di traffico marittimo, anche quello che si svolge molto lontano dalla costa britannica. E dunque all'alba del nuovo secolo erano 100 giovani pescatori allo sbando, senza più una guida, con le navi in secco aperte al caldo soffocante della Somalia. Oggi sono 1000, divisi in tre grandi gruppi, pronti all'arrembaggio in mare, sostenuti da 10.000 uomini e donne che organizzano lavoro a terra. Ma i nuovi bucanieri del Corno d'Africa hanno soprattutto una multinazionale. Hanno armi modernissime, furgoni, jeep, navi, barche, motori, una rete fittissima di informatori, esperti navali, mediatori, broker, riciclatori, occulti e insospettabili finanziatori. Follow the money, segui il denaro, recitava e recita ancora una vecchia regola degli investigatori. La pista dei dollari, nel caso dei pirati somali, ha svelato ai segugi dei Lloyd, la compagnia di indennizzo marittimo più importante del mondo, sorprese inquietanti. Solo qualcuna di queste. Nel 2010 il fatturato della pirateria somala è stato di 238 milioni di dollari. Per ogni nave si paga come riscatto in media 5,4 milioni. Cinque anni prima non superava mai i 150 mila dollari. Viene fatto proprio anche un costo medio per assalto. Armi e munizioni, scafi, GPS, viveri, eccetera. 300 mila euro è il costo, 300 mila dollari è il costo di un assalto, la media appunto di oltre 5 milioni di dollari, anche se, come è anche accaduto nel recentissimo caso della Kylin, dove i somali hanno parlato di un riscatto pagato da parte dell'armatore italiano compreso tra gli 11 e i 9 milioni di dollari, in quel caso il governo italiano ha smentito, ma insomma la sensazione è diffusa è che da quelle situazioni non si esca senza il pagamento del riscatto. Ecco, tra qualche momento torniamo, diciamo, invece a casa nostra con l'attualità, con i commenti e gli approfondimenti sulla fase 2 di questa manovra. Non vi nascondo che in questo istante sono catturato da questa immagine surreale che arriva dalla diretta dei funerali di Kim Jong-il, che, se c'è un'immagine appunto di Pyongyang che si adatta alle circostanze, è questa, in una giornata di grigia e un enorme corteo che scivola sulla neve appunto di una città grigia e bianca. Questo il saluto in questi momenti in diretta appunto della seconda generazione di leader comunisti della Corea del Nord. Bene, come vi dicevo, torniamo invece sull'economia italiana e partirei subito dal fondo questa mattina sul Sole 24 Ore. C'è Guido Gentili, il titolo è esplicito: non si torni a scherzare con il fuoco. Ma come, dice, abbiamo fatto una memoria da brividi, ci siamo imposti l'anticipo del pareggio di bilancio del 2013, abbiamo varato una storica riforma delle pensioni, insomma abbiamo fatto bene i compiti, ma il termometro, e naturalmente è lo spread, è sempre lì che segnala per l'Italia febbre alta, nonostante, come si dice, la cura da cavallo. Qualcosa non torna, scrive Guido Gentili. Era meglio tenersi un governo politico paralizzato? L'esecutivo dei professori è buono per la teoria e non per la pratica? Questa Europa ci soffoca, le diamo un bel calcione? Allora, ci sono diversi modi per analizzare la persistenza di quota 500, mentre l'abbiamo ricordato, oggi e domani vanno all'asta i titoli pubblici per 20 miliardi. Il primo è quello che, tra una strizzata d'occhio e un sondaggio politico in mano post manovra, fa finta di non capire cosa sarebbe successo se la cura da cavallo non fosse stata somministrata. Semplicemente, scrive Gentili, il paziente, fosse stato anche un poderoso quadrupede, sarebbe defunto. L'analisi controfattuale svolta sul Sole 24 Ore alla vigilia di Natale dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è stata su questo punto chiara ed inequivoca. Il paese era avviato al tracollo, come ha affermato da subito lo stesso Monti, tanto da mettere a rischio il pagamento degli stipendi pubblici. E prosegue: ci siamo portati dietro il terzo debito pubblico del mondo e può far comodo anche ai paesi storicamente più virtuosi, ma oggi in difficoltà, puntare il dito contro l'Italia. A Roma il percorso è obbligato. Dalla crisi si esce con i conti pubblici in ordine e con la crescita. Il governo ha dato una scossa fortissima sul piano fiscale e ha solo avviato le condizioni per lo sviluppo. Ora deve spingere con altrettanta forza sulla crescita, avendo come bussola ciò che proprio il professor Monti affermava a maggio scorso: meno barriere all'entrata, meno privilegi e rendite per gli inclusi, più possibilità di ingresso per gli esclusi e per i giovani, più spazio al merito e alla concorrenza. Insomma, un'economia più competitiva, una società più aperta, più inclusiva e più equa. Questo è il fondo del Sole 24 Ore questa mattina, firma di Guido Gentili. E tra l'altro vi ricordo, oggi dossier 13 pagine, tutte le novità sulla manovra, nello speciale appunto mercati e manovra. Ma ora è tempo di sentire come vanno le cose sulle strade. Torniamo subito. 7:47 minuti in questo istante, fase 1, fase 2, vi leggevo tra i titoli, sempre flop per la Padania, scrive Andrea Ballarin, tutto è pronto per la fase 2, si salvi chi può, eppure non c'è scampo, come non è stato possibile trovare il rifugio dalla fase 1, la madre di tutte le manovre fallimentari, il più gigantesco flop nella storia dei governi di questa Repubblica. Insomma, la Padania non risparmia i complimenti al governo Monti. Naturalmente sono molto i commenti e diversi tra loro sull'inizio di questa fase appunto critica, è il minimo che si possa dire. Siamo in recessione, scrive per esempio Valentino Parlato questa mattina sul Manifesto, e dice: l'avvio di una politica di crescita è necessaria perché i tagli non solo fanno male ma hanno aggravato le spinte recessive, e la fase 1 di questo governo è stata finora miope e negativa. Insomma, le critiche ovviamente non mancano, e c'è anche chi invece viene ormai definito l'alfiere dal punto di vista della politica invece del governo Monti, sicuramente Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc del Terzo Polo, da questo punto di vista si è speso parecchio. Oggi su Repubblica c'è c'è un'intervista appunto di Goffredo De Marchis a Casini, nel titolo uno degli elementi di questa conversazione dice: il colmo, le accuse di Silvio, chi ha creato il problema non può essere la soluzione, e ribadisce fiducioso, dice: questo governo cambierà la politica, se il governo regge, e deve reggere altrimenti l'Italia affonda, cambierà la politica, verrà modificato un sistema tanto mitizzato ma che non sta in piedi. Pier Ferdinando Casini continua a interpretare il ruolo di alfiere nell'esecutivo Monti, immagina nuovi scenari, non teme contraccolpi sul suo elettorato, non ondeggia tra il sostegno e il distinguo come invece fanno gli alleati PD e PDL. Dice Casini: è vero che questa manovra ha colpito in parte i soliti noti, ma non è vero che non siano stati penalizzati i redditi alti. Quella sulla casa, tra l'altro, è una patrimoniale mascherata, diciamo la verità, ma pur sempre una patrimoniale. Lo dico con chiarezza, prosegue Casini, se vogliamo superare la crisi dobbiamo evitare quest'opera di rimozione che ha aspetti surreali. Mi sembra il colmo che chi è stato finora a causa del problema oggi si ponga come soluzione, si riferisce a Berlusconi. Certo, Silvio ha sempre avuto una doppia personalità, una è ragionevole, l'altra utilizza i peggiori istinti populistici. Devo dire che la doppiezza di oggi mi pare più comprensibile di quella del passato. Ha fatto un salto mortale, non indifferente, sostenendo il nuovo governo. Cerca di alternare qualche momento di propaganda a ragionamenti seri, tutto abbastanza inevitabile. E Quindi, dietro le quinte, ancora una domanda del governo Monti. Lei sogna un nuovo assetto e dice: questo governo è destinato a modificare la tipologia di sistema che abbiamo costruito. Tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno e non credo che PD e PDL siano spaventati, hanno dimostrato coraggio. Il PDL ha avuto la capacità di capire che la sua agonia coincideva con la tomba per l'Italia. Il PD aveva la vittoria in tasca e ci ha rinunciato. Quando sento Di Pietro usare toni da campagna elettorale, penso che Bersani sia stato particolarmente ardimentoso. E il collega dice: sembrano quasi complimenti da epitaffio. Assolutamente no, loro sono i partiti di maggioranza, loro possono contendersi la guida del paese, sta a loro decidere se vogliono creare, come in Germania, schieramenti alternativi oppure guardarsi indietro. Questa è una delle, appunto, degli approfondimenti delle interviste che trovate oggi, in particolare su Repubblica, insomma dei commenti su questa manovra che trovate in edicola. Abbiamo ancora da completare, avevo lasciato in sospeso almeno un paio di testate, ed è proprio Mal di spread il titolo del Riformista oggi, e il Riformista che riprende anche un tema importante legato a doppio filo a quello che è la crescita e lo stato di salute del paese, che è quello della ricerca. 1300 ricercatori italiani sono già all'estero. Ecco, se Repubblica questa mattina insiste sui miliardi che sono stati portati all'estero, per il Riformista, il Riformista racconta invece che su 18.000 dottori di ricerca tra il 2009 e il 2010 quasi il 7% sono all'estero. Il profilo del cervello in fuga fornito dall'Istat non sorprende: è maschio, del centro-nord, famiglia con livello di istruzione elevato, ha conseguito il dottorato a meno di 32 anni, svolge attività di ricerca. I siti della diaspora si moltiplicano, da www.cervelloinfuga.com ad altri. Un'alleanza tra compagni di avventura che si sono ritrovati in varie capitali europee, armati di testa, voglia di fare, tanta grinta. Un'autodenuncia di quattro errori dei cervelli in fuga. Il primo: avere abbandonato il proprio paese a una classe dirigente di politici incapaci. Il secondo: non è vero che altrove tutto funzioni. Terzo: aspettare che la politica cambi è un alibi per l'inazione. Quarto: copiare dagli altri non porta da nessuna parte. Insomma, c'è anche uno spazio per la critica, per l'autocritica, e non solo per la fuga. E conclude questo breve commento in apertura oggi sul Riformista: facciamo di tutto, riportiamo a casa, i nostri cervelloni ci servono. Eccoci qua, abbiamo segnalato nella lettura qualche minuto fa, appunto, delle prime pagine, invece un Feltri che questa mattina si dedica a Don Verzé, alla storia del San Raffaele. Vi anticipo solo alcune righe della sua riflessione. Dice Don Luigi Maria Verzé: un prete di 91 anni, di lui come uomo si sa tutto e niente, pettegolezze e indiscrezione aiosa, ha subito condanne, è in corso un procedimento giudiziario sul suo conto, l'ospedale da lui creato a Milano San Raffaele è in difficoltà economiche, se ne occupa la magistratura, si è detto e si è scritto che la struttura sanitaria è stata malamente gestita, si parla di spese folli, investimenti all'estero, errori, pasticci. Ecco, uno degli amministratori di spicco è morto suicida. Soldi gettati al vento? Pare di sì. Si favoleggia di aerei usati come biciclette, con grande disinvoltura, di viaggi in Brasile, eccetera, eccetera. E Feltri dice: ciò che a noi sta a cuore è la sopravvivenza nel suo splendore scientifico del San Raffaele, che non è un ospedale qualsiasi, segnalatosi per episodi di mala sanità, pressapochismo, sciatteria. Al contrario, scrive Feltri, è un'eccellenza non milanese, non lombarda, non italiana, ma europea. Un modello di efficienza e organizzazione sul piano della cura e dell'assistenza in favore degli ammalati. Quindi un richiamo dalla prima pagina, una doppia pagina interna, un doppio approfondimento, pagina 8 e 9, che racconta la bufera giudiziaria, ma che appunto spende una difesa a tutto campo della costruzione, appunto, di quello che Don Verzé ha costruito e realizzato in questi anni. Eccoci qua, siamo praticamente alla conclusione. Vorrei ripartire, anticipare quelli che poi saranno i nostri temi tra circa una mezz'ora e vi riporto dunque allo speciale consumi che il Messaggero questa mattina fa parlando di saldi. Saldi, avvio ufficiale il 5 gennaio e scontro sulla spesa degli italiani. Confcommercio spera nella ripresa, i consumatori dicono sarà un flop. Insomma, per parlare del vostro Natale, delle vostre spese, più tardi avremo con noi Giovanni Felice, che è il presidente di Confesercenti Sicilia. Palermo, tra l'altro, si porta avanti, il 2 gennaio saranno già saldi, ma anche Aldo Bonomi, sociologo, il direttore dell'Istituto Aster, per parlare di soldi, ovviamente, di soldi che ci sono meno, ma anche di comportamenti di spesa che probabilmente stanno cambiando, non indipendentemente, ma anche e attraverso la crisi e le difficoltà di questi tempi. Bene, per questa prima parte siamo arrivati in chiusura. Ora la linea va a GR24, vedo già Dario Ceccarelli in regia che porta appunto il GR delle 8. Noi ci risentiamo tra una ventina di minuti circa. Più tardi.